Il Sole 24 Ore. Berlusconi, ci vuole stabilità, il governo va avanti, Fini, fiducia da parte nostra è inevitabile. Durissima l'opposizione, incommentabile, dice Bersani, l'UDC, bel discorso, ma 16 anni di fallimenti. Bruxelles approva la stretta sui bilanci dei paesi, il governo rivede al rialzo le stime per il 2010 e al ribasso quelle per il 2011. A Bergamo forse un altro litigio in sala parto, neonata invalida al 100%. La maggioranza. Io voglio solo ricordare una cosa, visto che... Quella che stiamo sentendo naturalmente è la diretta dalla Camera dei Deputati, dove si sta svolgendo il dibattito sulla fiducia al governo. Dopo il discorso del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, la voce che avete sentito è quella di Giuliano Cazzola del Popolo della Libertà. Dunque riassumiamo che cosa ha detto il Presidente del Consiglio oggi, lo facciamo con Elisabetta Fiorito da Montecitorio. Elisabetta. Sì, buongiorno Simone, quasi un'ora di discorso per ribadire che questo è l'unico governo possibile, che bisogna completare la legislatura per il bene del Paese e che non mancano i problemi all'interno della maggioranza. Il Premier Silvio Berlusconi è intervenuto a Montecitorio in un'aula piena e gremita, accanto al Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, dietro sullo scranno più alto Gianfranco Fini, e Berlusconi ha ammesso i problemi dei mesi scorsi con il Presidente della Camera. Sentiamo. Non vi è dubbio perciò che su problemi nuovi o sulle modalità di realizzazione del programma di governo in situazioni mutate vi possa essere un necessario e legittimo dibattito all'interno dei partiti della maggioranza. Discussione che può contribuire a mettere a punto una strategia più efficace nella risposta ai bisogni e di conseguenza capace di raccogliere un maggiore consenso. È indubbio che negli scorsi mesi la dialettica interna alla maggioranza ha molte volte superato i limiti fisiologici del confronto sulle idee e sul modo migliore di realizzare il programma sul quale si è raccolto il consenso del popolo italiano. L'instabilità produce astensionismo, spiega il Premier. L'Italia non può rischiare, bisogna portare a termine la legislatura, bisogna fare le riforme e anche il lodo Alfano. Il Premier rivolge quindi un appello alla maggioranza e alle forze responsabili dell'opposizione, ma sentiamo Berlusconi. La gran parte dei cittadini, per qualsiasi partito votino, non vuole che le decisioni fondamentali prese al momento delle elezioni possano venire alterate da logiche o interessi politici che sono a loro completamente estranei. Lo dico convinto che questo governo abbia fin qui bene operato. Lo dico convinto che non vi siano le condizioni di un'alternativa adesso che possa rispettare sia la volontà popolare sia la logica di un Parlamento democratico. Lo dico convinto che l'azione e i successi del governo sono stati resi possibili dal forte sostegno e dall'impegno costante dei gruppi parlamentari della maggioranza. E per il momento qui da Montecitorio, almeno per quanto riguarda il discorso di Berlusconi, è tutto. Ricordiamo che il Premier replicherà alle 16.30. A te Simone. Sì, grazie dunque ad Elisabetta Fiorito. Nel frattempo parla il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che si trova in visita a Parigi. Dice: se il governo va avanti è meglio dal punto di vista del dovere di garantire la stabilità delle istituzioni e la continuità della vita istituzionale, ma si tratta di una cosa da verificare stasera nel voto e poi nel proseguio, nello sviluppo successivo dei rapporti politici e parlamentari. Restiamo dunque a Montecitorio per avere un quadro delle altre forze politiche, naturalmente non solo l'opposizione ma anche Futuro e Libertà. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Commenti da subito importanti all'intervento del Premier. Il più atteso era quello del Presidente della Camera ed è un sostanziale via libera quello di Fini ai 5 punti programmatici, al conseguente voto di fiducia sulla giustizia. Fanno sapere da Futuro e Libertà, occorrerà però verificare come verranno concretamente tradotte in iniziative legislative le parole del Presidente del Consiglio. Ma ascoltiamo allora della vedova proprio di Futuro e Libertà. Il discorso di Berlusconi è stato una ripuntualizzazione a partire... Sono stati anche citati nuovi gruppi parlamentari, quindi a partire da una riarticolazione dei gruppi parlamentari. Berlusconi ha citato il confronto, lo scontro che c'è stato dentro il partito, dentro il PDL, dando la sua versione, ma insomma senza eccessi polemici. Adesso ci riuniamo come gruppo prima di prendere la decisione, però insomma, mi sembra che la valutazione sia una valutazione... Una valutazione? Una valutazione positiva. È un'interrogazione. intervento da bocciare è quello di Berlusconi invece per il Partito Democratico, lo dice la presidente del PD Rosi Bindi, sentiamo. Ci saremmo almeno aspettati un po' di onestà e un po' di pudore. Non so in quale paese vive Silvio Berlusconi. Mi chiedo se la Lega si accontenterà dell'ennesima definizione del federalismo in un discorso scritto senza chiedere al Ministro dell'Economia i conti per attuare il federalismo. Mi chiedo se le famiglie italiane possono ancora credere alla promessa di un quoziente familiare senza un impiego effettivo di risorse. Parole durissime quelle che arrivano dall'Italia dei Valori. Antonio Di Pietro attacca Berlusconi e dice: il premier si è dimostrato un serpente a sonagli che racconta un paese diverso da quello reale. Ma ascoltiamo allora Di Pietro. In Parlamento c'è una maggioranza farlocca, comprata, venduta, ricattata, che vende la propria dignità facendo finta di credere a un finto discorso di unità fatto da un serpente a sonagli che racconta una verità sulla situazione del Paese totalmente diversa da quella che è, perché il Paese non sta bene, come dice lui, ma c'è una rivolta sociale che sta portando miriadi di cittadini, giovani, meno giovani, senza lavoro, a ribellarsi. Parole decisamente più moderate da parte dei centristi. Per Cesa UDC Berlusconi ha certificato il fallimento di 16 anni di promesse. Ascoltiamo allora il leader dell'UDC. Bellissimo discorso sulla carta, mi sembra che oggi Berlusconi abbia certificato, proprio con le parole che ci ha detto, il fallimento di 16 anni di promesse mai realizzate. Il presidente Berlusconi sembrava il libro di Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè un signore che ha vissuto sulla Luna e che torna oggi dopo 15-16 anni e ci viene a riproporre gli stessi argomenti. Questo è il clima qui in Parlamento e da Roma è tutto, Simone. Grazie, grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Andiamo a cercare di fare un'analisi di quello che è successo questa mattina in aula e salutiamo Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Allora, il discorso di Berlusconi è stato sostanzialmente come ci si aspettava, Stefano, un discorso assolutamente istituzionale con nessuna o quasi sbavatura. Sì, è stato un discorso istituzionale nel quale Berlusconi ha voluto proprio rientrare nei panni del Presidente del Consiglio dopo mesi di polemiche molto violente che lo hanno coinvolto, e in fondo quando ha detto a un certo punto che la lettura notturna dei sondaggi l'aveva preoccupato perché aveva visto come la gente si stia allontanando e si è disgustata dal livello dello scontro politico, lì ha toccato secondo me un punto di sincerità reale. Quindi era un discorso che serviva a ricostruire l'immagine politica e istituzionale del Presidente del Consiglio. Da questo punto di vista può essere una base per un tragitto di governo, oppure può semplicemente essere la piattaforma per andare alle elezioni quando la situazione si dovesse confermare che non tiene di fronte a dei nodi politici dentro la maggioranza che non sono stati risolti, sono stati soltanto messi tra parentesi. Ecco, proprio su questo punto, Stefano, di poco fa la battuta del leader della Lega, Umberto Bossi, che dice: a lungo termine non regge niente, non c'è niente di eterno. Ecco, fuor di battuta, la domanda è: quanto può durare questa situazione? Può durare, secondo me non durerà molto, non durerà molto. La sensazione è che gran parte delle forze politiche, pur non volendo correre alle elezioni, perché non c'è una gran voglia di elezioni in giro, però di fatto sono già un po' psicologicamente in campagna elettorale. Ripeto, lo stesso discorso può essere considerato in qualche modo una premessa di campagna elettorale. Questo è un po' il rischio reale, perché si può andare avanti ancora un po', ma senza quell'impegno, senza quella vera coesione che servirebbe per attuare anche soltanto una piccola parte delle cose elencate dal Presidente del Consiglio oggi. Questo è il vero punto interrogativo. Oltretutto il gruppo di Fini non ha ottenuto nessun tipo di riconoscimento, voleva un riconoscimento della terza gamba della maggioranza, e invece Berlusconi ha riproposto lo schema, peraltro prevedibile, del PDL così com'è, cioè il suo PDL come casa comune di tutti i moderati italiani. Quindi da questo punto di vista non si può certo dire che il gruppo di Futuro Libertà abbia ottenuto qualche forma di riconoscimento. Vedremo dunque che cosa succederà. Ringraziamo intanto Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Buona giornata, Stefano. Arrivederci a voi. E in chiusura, chiudiamo così questa lunga pagina politica, in chiusura di questa prima parte del giornale radio parliamo di calcio con la Champions League. Dopo la vittoria della Roma e il pari del Milan ieri sera, oggi tocca all'Inter che a San Siro ospita i tedeschi del Werder Bremen. Parola d'ordine, dimenticare Roma. L'Inter di Benitez fa il suo esordio casalingo in Champions League con nella testa e nelle gambe ancora il KO in campionato contro i giallorossi. Il tecnico nega che lo scivolone e lo sfogo di Chivu abbiano lasciato segni nello spogliatoio. Ti dico che la squadra è una squadra unita, è una squadra con la mentalità giusta. Adesso non possiamo guardare dietro, penso che dobbiamo guardare avanti. Di certo però la gara dell'Olimpico ancora si fa sentire nelle gambe dei nerazzurri. Assente Samuel, convocati gli acciaccati Milito e Pandev, Benitez potrebbe lanciare dal primo minuto la stellina Coutinho. I tedeschi, che nei preliminari hanno fatto fuori la Sampdoria, sono insidiosi in attacco e allegri in difesa. Occhio al 21enne Marco Marin, mezza punta di origini bosniache, già sul taccuino delle big d'Europa. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le 13:15 minuti, 48 secondi nella prima parte del giornale radio. Vi abbiamo dato conto di questa lunga giornata politica che è iniziata con l'intervento del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi alla Camera e le reazioni piuttosto dure a dir la verità dell'opposizione, ma ci si avvia abbastanza tranquillamente a che Berlusconi e il governo ricevano la fiducia. E vi abbiamo poi parlato di calcio con la Champions League. Adesso l'economia. Nonostante le critiche già avanzate da diversi governi, la Commissione europea ha confermato la stretta sul debito e sulle sanzioni ai paesi che violeranno ripetutamente le regole di finanza pubblica. Ora la parola è agli Stati, primo appuntamento utile la riunione informale dell'Ecofin domani e venerdì a Bruxelles. Intanto il governo ha approvato il DPF nella sua nuova forma, quella coordinata proprio con l'Europa. Migliorano le stime di crescita per il 2010, peggiorano quelle per il 2011. Quanto prevede il nuovo quadro macroeconomico contenuto nella decisione di finanza pubblica DFP, la nuova versione del DPF prevista dalla legge di contabilità statale, un documento che ha ottenuto oggi il via libera di Palazzo Chigi. Quest'anno il prodotto interno lordo crescerà dell'1,2%, in aumento rispetto alle precedenti previsioni che lo fissavano all'1%. Per il 2011 invece è prevista una crescita dell'1,3%, inferiore rispetto alle precedenti stime che parlavano dell'1,5%. Lieve aumento poi del debito pubblico, mentre confermate le stime per il deficit PIL al 5% quest'anno e al 3,9% nel 2011. Obiettivi concordati con Bruxelles sui quali è stata costruita la manovra d'estate. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Al momento le nostre vendite sono circa del 10% superiore all'anno scorso. Non penso che possa durare tutto l'anno. Però penso che saremo sicuramente nella fascia positiva di sviluppo di fatturato. Mario Maiocchi è amministratore delegato di Unieuro Italia, la catena di elettrodomestici ed elettronica che nacque negli anni Ottanta tra le colline delle Langhe in Piemonte e oggi è stata acquisita al 100% dall'inglese Dixon. Con 100 negozi di proprietà e 150 affiliati, conta poco meno di 3.000 dipendenti, fattura 1 miliardo di euro. I due anni precedenti sono stati molto pesanti, perché come accennavo perdevamo circa 8% di velocità rispetto al mercato e i profitti erano in chiara contrazione. Unieuro ha razionalizzato la rete, chiuso 50 punti vendita su 150, ha rinnovato l'offerta commerciale e ha fatto degli investimenti. Nel 2010-2011 Unieuro conta di migliorare ulteriormente il fatturato. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Vi abbiamo parlato della situazione dei paesi europei, dei bilanci dei paesi europei. Intanto il sciopero generale in Spagna è stato convocato da due principali sindacati contro la riforma del mercato del lavoro. Come sta andando? Lo chiediamo a Michele Calcaterra da Madrid. Buongiorno Michele. Situazione tranquilla, almeno nella capitale Madrid, il giorno dello sciopero generale, il primo dell'era Zapatero. C'è stato sì qualche picchetto durante la notte per impedire che i camion arrivassero fino a Madrid, c'è stato qualche picchetto naturalmente davanti alle fabbriche, però generalmente situazione tranquilla, anche il traffico non ha grosse preoccupazioni. qualche incidente naturalmente in aziende come produttive come la Michelin di Valladolid, dove ci sono stati un paio di feriti, in attesa naturalmente delle grandi manifestazioni che si svolgeranno durante la giornata, in particolare quella di Barcellona alle 6 di sera e quella di Madrid che inizierà alle 6:30. Un dato interessante di carattere economico, è stato fatto un calcolo che il costo dello sciopero potrebbe essere tra il miliardo e i 4 miliardi di euro a seconda della partecipazione. Si conta che se ci fosse un 25% si arriverebbe ai 4 miliardi. Questo è tutto, in attesa naturalmente di questa sera. Grazie dunque a Michele Calcater. Restiamo sui temi del lavoro, ma quelli italiani. Il ricorso della FIOM sulle modalità con le quali la Fiat aveva attuato il reintegro dei 3 operai dello stabilimento di Melfi, licenziati nel luglio scorso, è stato dichiarato inammissibile dal giudice del lavoro, lo stesso che aveva emesso il provvedimento di annullamento dei licenziamenti. In sostanza, la FIOM aveva contestato la decisione della Fiat di riammettere i 3 licenziati, permettendo loro di svolgere attività sindacale ma non di tornare al lavoro sulle linee produttive. E restiamo sui temi del lavoro, perché sono state approvate alcune modifiche al DDL. Ennesimo passaggio parlamentare per il disegno di legge sugli arbitrati in caso di controversie di lavoro. Il provvedimento, che era stato rinviato alle Camere dal Capo dello Stato, è stato approvato oggi in sesta lettura dal Senato a larga maggioranza e passa ora alla Camera per la settima e forse ultima lettura. Il testo è stato modificato in particolare sulle norme per introdurre nell'ordinamento italiano l'arbitrato sul lavoro. La scelta di ricorrere a questo strumento da parte del lavoratore andrà fatta preventivamente, ma solo dopo il periodo di prova. Dovranno comunque passare 30 giorni alla firma del contratto di lavoro. Con un emendamento del relatore Saltamartini arrivano anche i risarcimenti per le vittime dell'amianto sulle navi di Stato, ma salta la responsabilità penale per gli ammiragli. Marcello Marinaro da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo alla cronaca. Un uomo di 52 anni è morto lo scorso 23 settembre nell'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma dopo 36 giorni di agonia. L'uomo era stato ricoverato per sottoporsi all'asportazione di un rene. Nei giorni successivi ha subito altri 5 interventi di un processo necrotico irreversibile causato dalla chiusura di un'arteria sbagliata e quindi un errore probabilmente da parte dei medici. Casi sospetti di malasanità dunque non solo al centro, al sud, a Bergamo, agli ospedali riuniti. Lo scorso 30 gennaio è nata una bimba invalida al 100%. Nello stesso reparto il giorno prima era morto un neonato a poche ore dal parto cesareo e il mese prima un altro bimbo era morto a 2 ore dalla nascita. Samantha non vede, non deglutisce, non si muove. Viene alimentata attraverso un sondino e non camminerà mai, perché è invalida al 100%. Fino a poche ore prima di venire al mondo, però, era sana, le ecografie lo confermano. La procura ha aperto un'inchiesta perché la mamma, una ragazza di origini albanesi, ma in Italia da anni assieme al marito, il 28 gennaio avverte i primi dolori e da Dalmine la mandano a Bergamo perché il parto è imminente. Agli ospedali riuniti le analisi dicono che la mamma e la sua bambina stanno bene, bisogna solo aspettare. Le inducono il parto e cominciano i dolori. 2 giorni dopo, la signora Zekai è ancora lì, perde sangue e acqua amniotica. Nel pomeriggio viene visitata da 2 dottoresse che, secondo quanto racconta suo marito, si mettono a litigare davanti a lei. Una suggerisce il cesareo, l'altra è contraria. Al cambio turno i medici che arrivano decidono subito per l'intervento, ma è tardi. L'utero si è lacerato e alla nascita la bambina non mostra segni di vita. Solo la pazienza dei neonatologi riesce alla fine a rianimarla. Samantha respira, ma non riderà mai e la sua mamma non potrà più avere figli. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo in tema di sanità, ma per una vicenda che tocca le corde dell'etica. Ucciderà sua sorella se non dona il midollo. La scritta comparsa sul muro di una fontana di Padova per denunciare il comportamento di una donna che, secondo chi l'ha scritta, si rifiuta di aiutare sua sorella gravemente malata di leucemia. Da un lato c'è chi colpevolizza la donna per la decisione di non donare il midollo, dall'altro c'è chi difende il diritto alla libertà di scelta. A questo abbiamo dedicato il nostro sondaggio e questa mattina a Bianco Nero è intervenuta la donna protagonista della la vicenda. Questa vicenda è esplosa come un fatto di cronaca per questo striscione che ha pubblicamente additato sua sorella a dire se non dona il midollo uccide sua sorella. Lei come ha preso questa vicenda, che forse ha aggiunto un dramma minore rispetto al dramma che sta vivendo lei? Io, mio malgrado, sono una delle protagoniste e credo che la scritta così forse è realmente molto scioccante, anche perché c'è talmente tanta disinformazione da tutte le parti con quello che si riferisce ai trapianti, ai donatori di midollo, eccetera, e quindi si crea un sacco di confusione, io credo, in generale. Ma io se le chiedessi in maniera diretta, secondo lei va tutelata la libertà di sua sorella di dire no, per motivi che forse voi saprete, che lei saprà, che insindacabili, se vuole? Certamente sì, dal punto di vista mio personale, della mia etica e della mia morale, sicuramente sì. Nessuno deve essere mai forzato a fare qualcosa che non si sente di fare. Così la uccidi, secondo voi è un'accusa giusta? È quello che vi chiedevamo oggi. I no sono stati il 52%, i sì il 48%. Ancora donne nel mirino, vittime di uomini violenti, storie che sembrano appartenere al Medioevo, come l'ultima in ordine di tempo che arriva dal Vicentino. La protagonista è una giovane marocchina ventenne. Il suo dramma inizia un anno fa, proprio in Marocco, quando i genitori decidono di costringerla al matrimonio con un trentenne conosciuto solo 3 giorni prima della cerimonia. Lei non può sapere che quell'uomo, che vive in provincia di Vicenza, dove lei è obbligata a trasferirsi, è in realtà un violento. La convivenza con la suocera e la cognata iniziano a farle capire che la sua vita si è tramutata in un inferno. Lei vuole imparare l'italiano, ma non può. Le dicono deve collaborare in casa. Lo studia di nascosto, davanti alla TV, ma per le due donne è inaccettabile. I litigi sono continui e alla loro prepotenza si aggiunge la rabbia del marito, che prima la picchia, arriva a violentarla, poi la rinchiude in casa. E qui la storia, per fortuna, cambia registro e diventa il racconto di un riscatto. La ragazza è riuscita a fuggire, a denunciare il marito indagato per violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni. Ora vive presso una famiglia, ha un lavoro. Andrita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura l'Europa di nuovo nel mirino del terrorismo islamico. È stato sventato un complotto che partiva dal Pakistan. Colpire Londra, Parigi e una città tedesca. L'obiettivo di un gruppo terroristico pakistano legato ad Al-Qaeda sarebbe stato questo. Un attentato multiplo e simultaneo con la presa di ostaggi e la loro uccisione, proprio come 2 anni fa a Mumbai, in India. A sventare l'attacco sarebbero stati gli sforzi coordinati dei servizi segreti occidentali, entrati in azione in seguito alle rivelazioni di un sospetto terrorista tedesco, detenuto nella base di Bagram, vicino a Kabul, dalla scorsa estate, quando fu catturato mentre stava cercando di far ritorno in Europa. Secondo gli analisti interpellati dalla televisione britannica Sky News, i numerosi raid compiuti negli ultimi tempi da droni americani nella regione pakistana del Waziristan si spiegherebbero proprio con la scoperta del complotto e la decisione di sventarlo colpendo gli organizzatori. Berlino smentisce che in Germania sia aumentato il rischio attentati, altrettanto non può fare Parigi, dove ieri per la seconda volta in 2 settimane è stata evacuata la Tour Eiffel per un allarme bomba poi rientrato. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura, in breve, 2 notizie di sport. Una brutta, che è scomparso all'età di 69 anni in una clinica di Reggio Emilia l'ex allenatore del Cagliari e della Fiorentina, Bruno Giorgi, che portò il Cagliari nel 93 e 94 sino alle semifinali di Coppa UEFA e nel 90 la Fiorentina alla finale di UEFA. E quella buona che il congresso dell'UCI, dell'Unione Ciclistica Internazionale, ha assegnato all'Italia l'organizzazione dei mondiali di ciclismo del 2013. È tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Ceci, con in regia Fabio Cantadori. Il prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.